Ho già parlato di Karen Blixen in occasione della lettura dei suoi racconti, tra cui il delizioso Il pranzo di Babette, di cui lascio il link in descrizione qui sotto. Ma il suo romanzo, La mia Africa, merita comunque una presentazione a parte, perché come accade coi libri da cui sono tratti film che hanno molto successo, l'abbiamo visto coi cartoni Disney, i cui personaggi si sostituiscono completamente a quelli dei romanzi originali, stravolgendone spesso la natura. Anche per la mia Africa, Meryl Streep si è sostituita a Karen Blixen nell'immaginario collettivo e la versione cinematografica si è sostituita a quella scritta da lei stessa. Il romanzo La mia Africa fu pubblicato in Italia un anno dopo l'uscita del film e usando come titolo quello del film stesso, diverso dal romanzo di Karen Blixen che invece titola Out of Africa, la cui traduzione sarebbe Via dall'Africa, fuori dall'Africa. E come copertina il libro utilizza un fotogramma del film, cosa che ne ha definitivamente impressa l'unificazione nell'immaginario collettivo. Chi ha comprato il libro pensando di trovare la versione scritta della pellicola pluripremiata di Sidney Pollack, invece, sarà rimasta delusa. Il romanzo, infatti, ha poco a che vedere col film, il cui soggetto è invece stato scritto mettendo insieme materiale da Out of Africa e da Ombre sull'erba della stessa Karen Blixen, dalla biografia di Denis Finch Hatton scritta da Sarah Wheeler, che fu una delle sue amanti, nonché dal lavoro di ricerca della giornalista italiana Anna Cataldi, che per 3 anni viaggiò tra Kenya e Danimarca per ricostruire la vita di Karen Blixen e che firmò il saggio, poi acquistato dalla casa di produzione del film. Probabilmente se Karen fosse stata viva all'uscita della pellicola si sarebbe piuttosto seccata, soprattutto per quell'insinuazione rimarcante la dipendenza della donna dall'uomo che Karen, la quale era stata lei a proporre al cugino Blixen di partire insieme e di sposarsi in Africa per poter avere dalla madre il finanziamento per la fattoria, ma che era in realtà l'amante del fratello di lui, fosse a un certo momento diventata bisognosa della presenza del marito a casa e gelosa delle sue assenze. Leggendo il romanzo La mia Africa, si ritrova al contrario una donna estremamente indipendente, autonoma, autosufficiente, emancipata. Il marito viene poco nominato, e così pure Finch Hatton, sulla cui relazione con Karen non c'è nulla di certo e che nella realtà pare sia stata abbastanza inconsistente. Tutta l'attenzione di Karen nel libro va all'ambiente, alla fattoria e agli indigeni che lei osserva e cerca di interpretare con approccio quasi antropologico. Il film ha dato spazio solo alla vicenda. Il romanzo, viceversa, si sofferma per l'80% sul carattere degli africani e sulla loro vita attraverso il racconto di aneddoti che nel film sono stati ignorati o banalizzati. L'Africa di Karen Blixen è quella dove occorrono 40 pagine per descrivere il carattere schivo, strano, altero e indomabile del piccolo Camante, che da bambino malato alle gambe diviene il cuoco alla fattoria e rivela un innato straordinario talento di chef. Karen descrive con humor ed estrema precisione il divertente sentimento di indulgenza che il bambino Kikuyu ha nei suoi confronti, pensando chissà dietro quei suoi imperscrutabili occhi nerissimi a quante futilità diano importanza i bianchi. I dialoghi surreali tra i due, la donna bianca e il bambino nero, sono la miglior descrizione possibile della sua Africa. Ogni capitolo del romanzo in cui l'autrice descrive i personaggi che vivono con lei in quei 17 anni costruisce un pezzetto di un enorme puzzle che alla fine darà come risultato l'Africa di Karen Blixen, quella della sua fattoria in Kenya. Ma il racconto degli eventi non è mai diretto, bensì risulta quasi come effetto collaterale tra una caratterizzazione e l'altra dei vari personaggi. Una scrittura davvero molto femminile, psicologica, più vicina alla tecnica narrativa di Virginia Woolf, sua contemporanea, che non a quella tradizionale basata sulla continuità spazio-temporale. Incoraggiata dalla madre di Karen, che sostenne e mantenne la figlia al suo ritorno dall'Africa senza più un soldo. In La mia Africa, Karen racconta tra l'altro della sua grande passione per la cucina, passione che l'aveva indotta a prendere lezioni da uno chef francese, Questo dettaglio, che nel film non emerge, ci offre quasi un aggancio propedeutico a quel delizioso racconto, forse l'opera migliore di Karen, che è Il pranzo di Babette, storia di una chef francese fuggita da Parigi a causa della rivoluzione e rifugiata in Danimarca come domestica in casa delle figlie nubili di un pastore. A loro e ai loro amici, la chef Babette offrirà un pranzo luculliano in occasione del centenario della nascita del padre. Un pranzo che avrà il potere di sciogliere i cuori e i sensi degli induriti danesi della piccola congregazione religiosa. I racconti Ombre sull'erba, cui la sceneggiatura del film attinge abbondantemente, contengono importanti informazioni pratiche sulla vita di Karen nella fattoria in Kenya. Furono scritti un anno prima che lei lasciasse il corpo, quindi molto più tardi rispetto al loro verificarsi. Quasi come se Karen avesse voluto all'ultimo mettere per iscritto ogni più piccolo dettaglio che documentasse il suo passaggio in Africa e il suo divenirne nemesi e ambasciatrice nel mondo, perché nulla andasse dimenticato. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi La mia Africa di Karen Blixen, Feltrinelli Editore, traduzione di Lucia Drudi Dembi. Da Devana, buon ascolto.